amo ancora. Rimani almeno per un'ora. Dillo che ti sei pentita. Dillo che mi vuoi ancora. Non lasciarmi, non buttarmi a terra. C'è un brivido caldo che mi porta via. Un pensiero profondo, tu sei poesia. Il sole spento piange, anche lui la luna gli sorride e luce baglia sugli occhi tuoi. Amore cieco e un po' distratto, amore bello anche sotto le tristi lacrime del tempo. Qui il baratto non esiste, dammi la mano. Dammi la mano. Prego non lasciarmi, ti prego rimani qui, io ti amo ancora, rimani almeno per un'ora, dillo che ti sei pentita, dillo che mi vuoi ancora, non lasciarmi, non buttarmi a terra, oramai se sto male perché manchi tu, il tuo ridere e scherzare, il tuo mondo tutto strano. Voglio volare con te, mi manchi già da adesso. E non sono come gli altri, non penso solo al sesso. Per me l'amore va oltre, oltre l'infinito e l'universo. Amore sei un tesoro, ti ho trovato nell'oceano io. Ti ho guardato e mi sono innamorato di te. E con tutto l'amore che posso donare a te, io ti ho dato il mio cuore. Vivimi con tutta te stessa, ti prego. Ti mando un grido di gioia, dimmi se senti l'eco. Ti prego, non lasciarmi. Ti prego, rimani qui. Io ti amo ancora. Rimani almeno per un'ora. Dillo che ti sei pentita. Dillo che mi vuoi ancora. Non lasciarmi, non buttarmi a terra. Oh no. Lasciami, ti prego rimani qui, io ti amo ancora. Oh, oh no. Io ti amo ancora.